Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. TFR in busta paga su base volontaria, conferma Alfano. Sindacati convocati dal governo per domattina alle 8. L'esecutivo verso la fiducia sul Jobs Act in vista del vertice europeo sul lavoro. La partita tra Juve e Roma finisce in Parlamento. Un deputato del PD dice: si mina l'immagine dell'Italia nel mondo, e presenta un'interrogazione alla moglie di Agnelli contro Totti. Ci giochi lui in un campionato a parte. Parlate chiaro, dite quello che sentite, ascoltate i fratelli. Ecco le indicazioni del Papa per il Sinodo della Famiglia che si apre oggi. La Turchia avrebbe scambiato con ISIS 180 jihadisti per 46 diplomatici. È ancora in corso la battaglia per Kobane, al confine fra la stessa Turchia e la Siria. Il Nobel per la medicina va a 3 scienziati che studiano il cervello. Hanno scoperto come funziona il nostro sistema di posizionamento, il nostro GPS. Tagli di spesa, si ipotizza un accorpamento tra corpo forestale e polizia. Ne parleremo col ministro dell'agricoltura, da cui dipende la forestale, Maurizio Martina. E mentre il calcio discute, le azzurre della pallavolo stracciano anche la Cina ai mondiali. Prima nel girone e ora la fase finale a Milano. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Al centro della discussione, lo avete sentito dai titoli, resta l'ipotesi del TFR in busta paga, mentre sul lavoro si potrebbe arrivare al voto di fiducia. Su questo le tensioni interne al PD sembrano ampliarsi, ma partiamo dal fronte del governo e da quello sindacale con la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno Simone. Settimana chiave per la riforma del lavoro, con il governo, come hai detto, orientato a mettere la fiducia sulla delega che domani approda in Senato. L'obiettivo, come sappiamo, è quello di accelerare i tempi per arrivare ad un primo voto da portare come risultato al vertice europeo sul lavoro di mercoledì a Milano. E di questo parlerà Renzi nelle prossime ore in una serie di incontri a Palazzo Chigi con i ministri interessati. Alle 18 c'è anche un consiglio dei ministri ufficialmente per apportare alcune correzioni al codice antimafia, ma che di fatto potrebbe già autorizzare la fiducia per mercoledì, una mossa che però rischia di creare uno strappo con la minoranza interna del PD, mentre gli alleati e il nuovo centrodestra puntano i piedi ad ogni modifica del testo iniziale. Insomma, una difficile quadratura del cerchio, ma c'è un altro versante, quello delle parti sociali. Domani a Palazzo Chigi alle 8 sono stati convocati CGIL, CISL, UIL e Confindustria. Non sarà un incontro facile. Poco fa Susanna Camusso è tornata a paragonare Renzi alla Thatcher, accusandolo di non essere disposto al dialogo. Renzi, che rilancerà la proposta di anticipare il TFR in busta paga dal 2015, sono soldi dei lavoratori, ha ribadito ancora il Premier nelle ultime ore. Non può essere lo Stato a decidere per loro. Un'operazione che però non piace a Confindustria, anche se Renzi ha promesso che verificherà la praticabilità dell'operazione e che le condizioni è che le imprese non vengano danneggiate. Mentre poco fa il ministro dell'Interno, leader nuovo centrodestra Alfano, ha confermato l'operazione TFR sarà su base volontaria. E da Roma è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi, che già accennava alle tensioni interne al PD, soprattutto sull'ipotesi di una fiducia sul Jobs Act, e sembra incrinarsi anche il fronte renziano. Sentiamo. La sinistra Dem non molla e mette in guardia Matteo Renzi. L'eventuale ricorso alla fiducia sul Jobs Act rischia di aprire un nuovo strappo. È l'avvertimento della minoranza interna, che chiede più collegialità anche nella gestione del partito. Per l'ex ministro Damiano, sul lavoro un'intesa è possibile, ma servono più fondi per i sussidi. Renzi ha fretta per via del vertice europeo di mercoledì. Il punto è come arrivare all'accordo. Non vorrei che, per chiudere purché sia, scegliesse la via della fiducia, spiega il presidente della Commissione Lavoro della Camera. Sorpresa, a mettere in discussione la linea del segretario democratico è anche uno dei suoi fedelissimi della prima ora, Matteo Richetti. Dopo il suo ritiro dalle primarie in Emilia-Romagna, l'esponente Dem si sfoga criticando la scarsa chiarezza che ha caratterizzato la discussione sull'articolo 18. C'è un solco profondo fra il partito e i suoi elettori, colmato solo da Matteo Renzi, come se lui avesse reso credibile e votabile se stesso e non il PD, avverte Richetti, il cui invito è quello di recuperare lo spirito del renzismo originario, che prevede qualche comparsata in meno e qualche momento di studio in più. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda il Partito Democratico c'è anche il risultato delle primarie in Calabria, torneremo a parlarne più avanti. Comunque ha vinto il candidato Bersaniano e arriva tra l'altro in Parlamento proprio per mano di un deputato del Partito Democratico la partita di ieri tra Juve e Roma. Fa sapere tale Marco Miccoli che presenterà un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Economia ed un esposto alla Consob perché le due società sono quotate in borsa. Secondo Miccoli addirittura si mina l'immagine del paese nel mondo. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone. Quanto ce la tireremo dietro questa vicenda? Parecchio e con grande godimento. Sarei rimasto davvero sorpreso non ci fosse stata l'interrogazione parlamentare dopo Juventus-Roma di ieri, con contrarigori, con i centimetri che tornano a far discutere come ai tempi di Dino Viola e Ramon Turone, con Totti che dice cose molto pesanti, con la Juventus che vince questa bella partita, perché tutto sommato è stata bella e piena di tutte queste cose. Certamente il campionato non è finito, certamente queste sono le due squadre più forti del calcio italiano. Certamente la Roma esce da tutto questo baccano con la certezza di essere competitiva, perché l'anno scorso, non dimentichiamolo, quando andò a confronto diretto a Torino ne prese 4 e quindi fu tutta un'altra storia. Certamente è una grande storia italiana questa che ci porteremo dietro per un po'. Senti Carlo, al di là di tutte le polemiche e le folli ipotesi di complotto, un arbitraggio sicuramente non all'altezza. No, pessimo, un arbitraggio pessimo. Rocchi poveretto peggiore in campo, ma sappiamo bene come l'arbitro sia in partite di questo tipo il soggetto più a rischio. Quindi Totti, Rocchi ha arbitrato molto male, ha favorito la Juventus, ed è inutile negarlo. E detto questo, o ci fidiamo della buona fede degli arbitri oppure andiamo a pescare la domenica e non se ne parla più, Simone. Ma poi ci sono state anche molte altre cose, anche più calcistiche, perché ad esempio la notizia calcistica forse sono le tre pere che ha preso l'Inter anche a Firenze, e questo progetto che dava a tutti grande fiducia che sembra davvero naufragare dopo un pugno di giornate di campionato. Allora, tutto materiale per Centralini, il nostro centralino, gli siamo vicini, che oggi sarà piuttosto caldo, per tutti i convocati a partire dalle 14, il numero è come sempre l'800 24 00 24. Veniamo agli altri temi, tra poco torneremo a parlare di sport, però per parlare delle ragazze del volley, però parliamo del sinodo per la famiglia che si apre oggi, e naturalmente gli occhi, in particolare i separati e divorziati, sono puntati su questo appuntamento. È stato lo stesso pontefice, nell'aprire i lavori, a tracciare il metodo da seguire per le prossime due settimane affinché sia garantita quella sinodalità che tanto ha incoraggiato fin dalla sua elezione. Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro. Nessuno dica questo non si può dire, penserà di me così o così. Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia, e al tempo stesso si deve ascoltare con umiltà. Libertà e coraggio di dire tutto con franchezza ed ascoltare con cuore aperto, dunque, per esercitare quella collegialità richiamata nella sua relazione anche dal Cardinal Baldisseri, che deve essere il filo conduttore per i 253 partecipanti, religiosi e laici, chiamati ad affrontare le sfide di una famiglia che cambia e che spesso è ferita. Il Cardinale Erdo, relatore generale del Sinodo, ha sottolineato che i divorziati, risposati, appartengono alla Chiesa e hanno diritto di essere accompagnati dai loro pastori. Quanto alla teoria del gender o l'equiparazione delle unioni omosessuali a quella tra uomo e donna, la maggioranza dei praticanti ha detto non è favorevole. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La presidente brasiliana Dilma Rousseff, leader del Partito dei Lavoratori, andrà al ballottaggio il prossimo 26 ottobre, quando a contenderle la poltrona di presidente troverà il candidato socialdemocratico Aécio Neves. Esclusa dalla corsa invece Marina Silva, leader ecologista e candidata del Partito Socialista. L'erede di Lula, la Rousseff, ha ottenuto il 41,6% dei voti, il suo rivale Aécio Neves ha raccolto il 33,6%, un risultato di molto superiore alle previsioni. Torneremo a parlarne nella seconda parte della trasmissione dopo la viabilità, ma ora ci spostiamo al confine tra Turchia e Siria, dove prosegue la battaglia per la città di Kobane. Il giorno dopo il suicidio della combattente curda che si è fatta esplodere per non finire nelle mani del nemico, Ankara tratta con i vertici del califfato e, secondo il Times, avrebbe scambiato con l'ISIS oltre 180 jihadisti in cambio di 46 diplomatici turchi e 3 iracheni. Kobane intanto è assediata, nonostante la resistenza all'ultimo sangue dei Peshmerga e nonostante i bombardamenti aerei delle forze americane della coalizione anti-ISIS, a cui nelle ultime ore si sono aggiunti gli F-16 di Belgio e Olanda, l'avanzata non si arresta. Secondo un responsabile curdo siriano, i miliziani sarebbero arrivati a 1 chilometro dalla città. E dopo la morte dell'ostaggio britannico Henning, la famiglia dell'ostaggio americano Peter Kassig, che l'ISIS ha minacciato di uccidere, ha diffuso una sua lettera. «Ho paura di morire», scriveva a giugno ai genitori, «ma la cosa più difficile è non sapere, immaginare, sperare, se posso addirittura sperare». Kassig, 26 anni, aveva abbracciato tempo fa l'Islam. «In termini di fede», scriveva ancora, «prego ogni giorno, non sono arrabbiato, sono in una complicata situazione dogmatica qui, ma sono in pace con il mio credo». Kassig era andato in Siria per una ONG da lui fondata e fu catturato nell'est del paese un anno fa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Inizia la settimana dei premi Nobel, oggi assegnato quello per la medicina, in diretta Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno a Simone e a tutti gli ascoltatori. È stato assegnato quest'anno all'americano John O'Keefe e ai norvegesi May Britt ed Edward Moser. Hanno scoperto le cellule nervose che costituiscono il sistema di posizionamento nel cervello, un sistema che ci permette di orientarci come avessimo un GPS biologico interno alle strutture cerebrali e che ci consente di avere costantemente le coordinate spaziali del luogo in cui ci troviamo. Il Nobel alla medicina è andato così, come dicevo, all'americano 75enne John O'Keefe della University College di Londra e alla coppia norvegese composta dalla 51enne May Britt e dal 53enne Edward Moser, entrambi neuroscienziati della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim. I due coniugi norvegesi sono la quinta coppia sposata a conquistare un Nobel e May Britt è l'undicesima donna a vincere il premio per la medicina. Il primo a scoprire a fare questa scoperta era stato O'Keefe nel 71, aveva scoperto che c'era questo tipo di cellula nervosa nell'area del cervello chiamata ippocampo che si attivava sempre quando una cavia si trovava in un determinato posto in una stanza. Poi i due norvegesi hanno 34 anni più tardi reso più completa e precisa la mappa di queste cellule coinvolte nella localizzazione. Ora i tre scienziati si divideranno il riconoscimento pari a 8 milioni di corone svedesi, oltre 880 mila euro, metà andranno ad O'Keefe e metà ai coniugi Moser. Ed è tutto. Grazie alla nostra Adriana Fracchi, anche di questo torneremo a parlare tra un attimo, ci collegheremo con un neuroscienziato per farci spiegare ancora meglio di quanto non abbia già fatto la nostra collega ampiamente che cosa vuol dire questa scoperta e che prospettive apre. Jules Bianchi resta in condizioni critiche in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico di circa 3 ore a causa del gravissimo incidente di domenica al Gran Premio di Suzuka. Il pilota francese, secondo i media giapponesi, non sarebbe in grado di respirare senza l'aiuto di macchinari. Il Mie University Hospital di Yokkaichi, dove Bianchi è stato trasportato d'urgenza ieri pomeriggio, non diffonderà alcun aggiornamento sulle condizioni fino all'arrivo dei genitori del giovane pilota, che sono attesi in serata. Il mondo del calcio, si diceva, discute di Juventus-Roma, intanto quasi sotto silenzio, ma in realtà con un ottimo successo televisivo e di pubblico, le ragazze del volley macinano vittorie nei mondiali che sono in corso, tra l'altro, in Italia. E adesso si fa sul serio e soprattutto sognare si può. Il mondiale di volley sbarca per la sua fase finale a Milano con le azzurre che hanno finora raccolto vittorie ed entusiasmo. Prima a Roma, poi a Bari, dove le ragazze di coach Bonitta hanno conquistato il primo posto anche nel raggruppamento della seconda fase. L'Italia sarà quindi testa di serie in uno dei due gironi a 3 della fase finale, quindi evitato il rischio di incontrare le brasiliane, Altra testa di serie, vedremo cosa ci regalerà il sorteggio odierno a Milano tra Cina, battuta ieri per 3-1, Repubblica Dominicana, l'unica a superarci finora ma in una gara pressoché ininfluente, Russia, bicampione in carica ma finora altalenante, e Stati Uniti, sempre temibili. Insomma, il podio è lì a portata di mano, l'oro è un sogno che tutte hanno in cuore ma che nessuna delle azzurre ha ancora il coraggio di confessare. Intanto di sicuro da medaglia sono i numeri che ha messo insieme questo mondiale, dallo share TV di Rai Sport agli spettatori in tribuna, oltre 102.000 nelle quattro città della seconda fase. E anche il forum di Assago è già da mesi esaurito per il gran finale del weekend. Una festa che speriamo si colori di azzurro, rosa e oro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ricorderete la notizia di questo maggio sui giornali? È stata ritrovata la Santa Maria, una delle caravelle di Cristoforo Colombo al largo di Haiti. Ebbene, l'UNESCO ha annunciato poco fa che non si tratta della caravella di Colombo. C'è una prova inconfutabile, spiegano che il relitto risale ad un'epoca molto più tarda. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il governo verso la fiducia sul Jobs Act in vista del vertice europeo sul lavoro. Ci saranno conseguenze politiche, dice Stefano Fassina della minoranza. TFR in busta paga su base volontaria, conferma Alfano. La partita tra Juventus e Roma finisce in Parlamento, secondo il deputato, un deputato del PD si mina l'immagine dell'Italia nel mondo e presenta un'interrogazione. Antonio Conte, CT della Nazionale, dice cercheremo di rasserenare il clima. Parlate chiaro, dite quello che sentite, ascoltate i fratelli, ecco le indicazioni del Papa per il Sinodo della Famiglia che si apre oggi. La Turchia avrebbe scambiato con ISIS 180 jihadisti per 46 diplomatici. Ancora in corso la battaglia per Kobane, al confine fra la stessa Turchia e la Siria. Tagli di spesa, si ipotizza un accorpamento tra corpo forestale e polizia. Ne parleremo col ministro dell'agricoltura, da cui dipende proprio la forestale, Maurizio Martina. E veniamo al Nobel per la medicina. È stato assegnato a questa scoperta, come avete sentito, del sistema di cellule che, per così dire, ci permette di orientarci. Saluto Giorgio Vallortigara, che è neuroscienziato, direttore del CIMEC, Centro Interdipartimentale Mente-Cervello dell'Università di Trento. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ci dà qualche dettaglio in più, ci spiega che cosa hanno scoperto questi scienziati e che prospettive apre la scoperta che hanno fatto? Allora, quello che hanno scoperto è che registrando in una zona del cervello che si chiama ippocampo, che sapevamo già essere importante per la memoria dello spazio in modo particolare, si trovano dei neuroni, delle cellule, la cui attività aumenta quando l'animale, tipicamente questi esperimenti sono condotti sui ratti, si trova in un certo luogo nello spazio. Quindi supponiamo si mette un ratto in una stanzetta e questo ratto, quando si trova in un certo posto, supponiamo un angolo, ci sarà un neurone che in maniera selettiva dice sono qui, e lo dice attraverso un incremento della frequenza di scarica. Queste vengono chiamate cellule dei posti. Poi ce ne sono altre che sono state scoperte più recentemente dai coniugi Moser, che hanno non un campo localizzato ma piuttosto una specie di griglia regolare sull'intero ambiente dell'animale. E si tratta di una scoperta importantissima per le neuroscienze cognitive, perché per la prima volta Cos'è questa griglia? Cos'è questa griglia, professor Vallortigara? Allora, anziché questa volta rispondere a quando l'animale si trovi in un certo posto, il neurone risponde quando il neurone si trova in una serie di posti localizzati come un esagono regolare. Questa è una griglia. E questa griglia fornisce una specie di mappa spaziale dell'ambiente che serve agli organismi biologici per orientarsi. Chiarissimo. Allora, questo è quello che hanno scoperto. Vorrei capire, dal punto di vista, al di là della scoperta in se stessa, che prospettive apre questa scoperta? Che prospettive aprono queste due scoperte in realtà? Beh, aprono prospettive potenziali per la comprensione del modo in cui gli organismi si orientano nello spazio e quindi anche dei deficit, delle malattie che sono connesse all'orientamento spaziale, che sono tipici, diciamo così, di lesioni di certe parti del cervello. Ora che conosciamo quali neuroni sono implicati e soprattutto in che modo questi neuroni codificano lo spazio, possiamo pensare ha modi di migliorarne l'attività, regolarla con dei farmaci o eventualmente anche, siccome sappiamo che nell'ippocampo ci sono localmente fenomeni di neurogenesi, di comparsa di nuovi neuroni, di stimolare la comparsa di nuovi neuroni. E applicazione al di fuori del campo strettamente della medicina? Beh, la scoperta delle place cells, delle cellule dei posti, delle grid cells, ha aperto la strada ad una varietà di applicazioni di tipo robotico, e cioè oggi ci sono piccoli robot che funzionano orientandosi nello spazio con reti neurali simulate che hanno per l'appunto le proprietà di queste place cells e di questi grid cells. E quindi in sostanza dà la possibilità di avere appunto dei robot, delle macchine o anche altre strutture, altri attrezzi tecnologici, per così dire, che si orientano esattamente come noi. Esatto, che sono capaci di orientarsi in una maniera molto efficiente, come accade per gli organismi biologici e per gli esseri umani, per esempio muovendosi nell'ambiente, evitando di urtare gli ostacoli, aggirandoli, non andando a cozzare contro le superfici e così via. La ringrazio, grazie a Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, direttore del CIMEC, il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello dell'Università di Trento. E saluto Paolo Magri, torna da noi, direttore dell'ISPI. Benvenuto Magri, bentornato anzi ai nostri microfoni. La chiamiamo in quanto persona che ben conosce il Brasile per avere un punto da lei su queste elezioni che hanno visto vincere Dilma Rousseff, ma naturalmente al primo turno ci sarà un ballottaggio, Rousseff che ottiene il 41,6% dei voti e Aécio Neves che raccoglie il 33,6%. Che possibilità c'è che vinca Neves e non la Rousseff, secondo lei? Beh, tutte le previsioni sono state sbagliate questa volta, quindi prevedere cosa succederà al secondo turno è difficile. Il consenso generalizzato in questo momento è che per Dilma ci siano delle chance in più, nel senso che era peggiore un'ipotesi andare al ballottaggio con una candidata come Marina Silva che per certi aspetti era simile, perché c'era una volontà di essere vicina al mercato ma anche di grande assistenza ai ceti più deboli. Lo scontro con Aécio Neves è uno scontro più netto, più chiaro, più tradizionale: il centro-sinistra, il centro-destra, con libero mercato da un lato e un'attenzione ai poveri, banalizziamola così, da parte di Dilma. Dilma costruirà la sua campagna dicendo che Neves vuole togliere i sussidi ai poveri e 40-50% della popolazione sarà dalla sua. Senta Magri, elezioni che accadono in un momento particolare per il Brasile, nel quale dopo anni di crescita tumultuosa si inizia a sentire la crisi, no? In maniera forte, in un momento anche particolare per un pezzo importante del Sud America, l'Argentina che vive le difficoltà che conosciamo e che stiamo raccontando da questi microfoni molto spesso, e un Venezuela in altrettanto serie difficoltà con inflazione che viaggia a ritmi del 60%. Sì, due paesi che sono governati da governi populistici e che stanno vivendo difficoltà ben più serie di quelle del Brasile, e questo è uno degli argomenti che usa il Partito dei Lavoratori in Brasile: noi abbiamo aiutato i poveri ma non abbiamo portato il paese al tracollo che sta vivendo l'Argentina sotto certi aspetti e il Venezuela, due paesi, uno in default tecnico, l'altro non default da luglio, con inflazione galoppante, in Brasile il 5%, qui parliamo del 30-60% nel caso del Venezuela, riserve che stanno finendo e governi che arrampicano e che stanno cambiando. L'Argentina ha perso il governatore della banca centrale, il Venezuela ha cambiato tre ministri nelle ultime settimane, quindi una situazione di difficoltà che fa apparire il Brasile un'isola felice. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per le sue analisi sempre puntuali. Noi torniamo alla politica e al Partito Democratico, perché oggi l'inchiesta di Daniele Biacchessi è dedicata al tema del tesseramento. Non devono stupire i dati diffusi in questi giorni sul netto calo delle tessere del Partito Democratico, passate da 539.354 del 2013 a poco meno di 100.000 del 2014. Secondo alcune fonti però sarebbero ad oggi nemmeno 60.000. E non è questione di una mancanza di attenzione alla partecipazione, come sottolinea la minoranza del PD, in particolare Pierluigi Bersani. Secondo tutti i sondaggi il partito oggi naviga intorno al 40% degli elettori, che non intravedono alternative a destra e a sinistra alla leadership incontestata di Matteo Renzi. Ma guardiamo i dati e i numeri. Alle elezioni politiche del 2008 Walter Veltroni, pur sconfitto da Silvio Berlusconi, prende il 33,18% dei voti, cioè 12 milioni di elettori. In quel momento gli iscritti al partito sono oltre 700.000. Nel 2013 il PD di Bersani scende al 25,42%, oltre 8.600.000 elettori, quasi 4 milioni in meno di 5 anni prima. Lo scorso anno, come dicevamo, gli iscritti sono quasi 540.000 e si arriva alle elezioni europee dove il partito fiora il 41%. È accaduto che il nuovo corso della giovane dirigenza democratica ha favorito una diversa organizzazione del partito, diventato più fluido degli anni passati, con meno burocrazia, apparato, funzionari, più incline a seguire le linee dettate da altre formazioni politiche, come il Movimento 5 Stelle, e questo è il punto. Alle elezioni 2013 il Movimento 5 Stelle diventò il primo partito italiano con un numero bassissimo di iscritti, ma con una partecipazione su internet straordinaria, perché quel movimento non prevede ad oggi associazioni o tesseramenti, ma soltanto una piattaforma informatica nazionale a cui chiunque può iscriversi in modo gratuito, purché rispetti la sola condizione non essere iscritto ai partiti o alle loro associazioni fiancheggiatrici. Renzi non l'ho ancora specificato, ma è proprio questo il modello che ispirerà il nuovo corso democratico. Meno tesserati, più partecipazione online, meno piazze piene, più carisma della leadership. Lo stesso modello utilizzato dai democratici americani. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il governo verso la fiducia sul Jobs Act in vista del vertice europeo sul lavoro, minoranza PD all'attacco per Fassina, ci saranno conseguenze politiche. Il TFR in busta paga su base volontaria, conferma Alfano. Chiederò alla FIFA di accelerare sulla prova TV, lo dice il presidente della FIGI Civitavecchia dopo le polemiche su Juventus-Roma. La partita finisce in Parlamento con due interrogazioni. Parlate chiaro, dite quello che sentite, ascoltate i fratelli. Ecco l'indicazione del Papa per il sinodo della famiglia che si apre oggi. La Turchia avrebbe scambiato con ISIS 180 jihadisti per 46 diplomatici. Ancora in corso la battaglia per Kobane, al confine fra la stessa Turchia e la Siria. Tagli di spesa, si ipotizza un accorpamento tra corpo forestale e polizia. Parleremo di questo e anche di altro naturalmente col ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, ospite tra poco ad Effetto Giorno. Intanto la borsa. M come miglioramento continuo. M come module block. Vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata positiva, mezzo punto percentuale di guadagno per il FTSE MIB, altrettanto per il FTSE All-Share, bene anche Parigi più 0,35, meglio Francoforte più 1,06%, Londra che guadagna lo 0,44%, Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai vanno bene i mercati oggi? I mercati sono partiti bene sulla scia di New York e di Tokyo, avevano rallentato leggermente a metà mattina, ma adesso tornano a vivacizzarsi grazie ai solidi future di Wall Street, dove è atteso un più 1,2% sul Dow Jones. La mattinata era stata priva di indicatori macroeconomici di rilievo e ha beneficiato dei riflessi dei dati statunitensi sul mercato del lavoro che già avevano sostenuto le borse venerdì scorso. Per quanto riguarda singoli titoli ci sono cose da segnalare, Isabella? Va molto bene Salini Impregilo che sale del 5,2%, oggi la società ha annunciato l'avvio di un programma di buyback fino al 10% del capitale ordinario, sottolineando che fra gli obiettivi ci sono anche operazioni di merger and acquisition di piccola e media taglia. Vanno bene le banche popolari, fa più 2,4 la BPM, più 2,3 la popolare Emilia-Romagna, queste sfruttano ancora la speculazione su uno scenario di consolidamento dopo gli stress test della BCE. È in ribasso Eni, fa meno 0,5% e paga il taglio della raccomandazione a neutral da parte degli analisti di Mediobanca. Stabile, piuttosto stabile il cambio, ci vuole un dollaro e 25 per comprare un euro. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E di notizie ce n'è una appena battuta dalle agenzie, arrivata pochi istanti fa. Un uomo ubriaco al volante di un'auto di grossa cilindrata ha travolto due ragazzini di 16 e 15 anni che viaggiavano a bordo di uno scooter. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio al chilometro 32 della via Appia, nei pressi di Velletri. Siamo, come sapete, a due passi da Roma. I giovani sono stati trasportati al 118 in ospedale e sono in condizioni gravi. Secondo quel che si è appreso, all'uomo era stata ritirata la patente il giorno prima per guida in stato di ebbrezza, sicuramente una di quelle vicende da approfondire. Cambiamo argomento, parliamo spesso di fuga dei cervelli, ma un altro dei problemi è quanti cervelli stranieri riusciamo a far entrare in Italia. Ebbene, a quanto pare, secondo quel che scrive il Sole 24 Ore oggi in edicola, proprio pochi. L'Italia non è un paese per stranieri con la laurea. Meno di uno su 10 tra quelli residenti nel nostro territorio può sfoggiare un titolo di studio alto. La metà ha un'istruzione bassa e un altro 40% non è andato oltre le superiori. In altri paesi europei invece la quota di immigrati laureati è più cospicua, sfiorando una media del 25%. Nel Regno Unito si registra addirittura un picco del 50% e in Svezia del 37%. E questa è la fotografia che emerge dalla ricerca della Fondazione Moressa, che ha analizzato i livelli di istruzione nel nostro paese e in Europa per verificare se l'Italia sia in grado di richiamare anche profili qualificati, non solo i lavoratori cui si pensa quando si parla di immigrati. Questa dinamica migratoria riflette peraltro la situazione interna. I paesi dove i residenti autoctoni hanno alti livelli di istruzione presentano anche una popolazione straniera maggiormente qualificata. In effetti, anche limitando il confronto agli autoctoni, la situazione non è brillante in Italia. In media, meno del 15% degli italiani ha concluso un corso universitario. E un ulteriore doppio primato negativo spetta al nostro paese. Abbiamo le percentuali più alte di NEET, giovani che non studiano né lavorano, il 21% fra gli italiani, quasi il doppio della media UE, e il 31% fra gli stranieri. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Maurizio Martina, ministro per le politiche agricole e forestali, benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Allora, la chiamiamo, tra le altre cose, poi insomma accenneremo anche ad altro naturalmente, per questa ipotesi che sta circolando di accorpamento del Corpo Forestale dello Stato, scusate il gioco di parole, la cacofonia o quello che volete, alla Polizia. Un'ipotesi che sta circolando naturalmente in ambito di possibilità di risparmi di spesa. Il Corpo Forestale dipende dal suo Ministero e noi vorremmo capire che cosa ne pensa. Ma guardi, ancora nulla è deciso ovviamente. La delega, la PA che è stata appena impostata dal governo col Parlamento, si pone un obiettivo, quello della riorganizzazione dei corpi, in particolare della riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato. Ci sono diverse opzioni sul tavolo, nelle prossime giornate, nelle prossime settimane approfondiremo. Penso che sia possibile corrispondere al tema dell'efficientamento sempre diciamo migliore della riorganizzazione anche dal lato del Corpo Forestale dello Stato. Abbiamo due o tre idee. Ci si lavorerà su anche nelle prossime settimane, non hai nulla per scontato. Mi sembra di capire, Ministro, se interpreto bene, lei sta dicendo si può risparmiare anche senza necessariamente mettere insieme i due corpi. Ma si può risparmiare ed efficientare scegliendo diciamo diverse opzioni, scegliendo fra diverse opzioni. Noi ad esempio abbiamo fatto una proposta che impegna il Corpo Forestale dello Stato ad assumere su di sé tutto il tema delle ex polizie provinciali. Già questo sarebbe un punto importante di efficientamento e razionalizzazione. Possono essere anche altri scenari che vanno valutati, visti nel merito, Noi non ci troviamo nessun tipo di confronto, l'importante a un certo punto è definire il quadro preciso delle scelte da compiere e poi maturarle concretamente. Insomma, mi sembra di capire che lei dica, non, cioè basta che ci si confronti, tutte le opzioni sul tavolo sono possibili in sostanza. Ma secondo me l'obiettivo è condiviso, bisogna anche su questo fronte fare un salto di qualità nell'organizzazione, nell'efficientamento, peraltro questi sono i messaggi veri che arrivano proprio da chi vive tutto il giorno sul campo, diciamo, queste professionalità. Giusto il dibattito, giusto il confronto tra opzioni diverse, a un certo momento è assolutamente sacrosanto che si tirino le fila di questi lavori e si definisca precisamente la strada da percorrere, per cui siamo dentro questo lavoro, ripeto, tutto è ancora aperto, adesso si tratta di definire precisamente la strada da scegliere. Senta Ministro, oggi il Corriere della Sera parla di uno scontro tra lei e il Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, sul tema della legge sul consumo del suolo, cioè quella che dovrebbe arrestare almeno parzialmente la cementificazione del paese. Che cosa ci dice? Beh, che è una bufala, bella e buona, mi dispiace, ma l'ho letta anch'io con sorpresa, ci siamo anche sentiti con il ministro Galletti, non è assolutamente così. Chi sa precisamente come sta andando la discussione in Parlamento sulla legge sa che intanto in questi mesi sono fatti dei passi importanti, sono i relatori, si è avviata la discussione è parlamentare. Noi chiediamo al Parlamento di poter accelerare questo lavoro, anzi io aggiungo che per me l'obiettivo rimane l'approvazione della legge entro fine anno. E sono a disposizione per quel che mi compete come ministro Galletti per fare un salto di qualità concreto, stringere su un testo e approvare definitivamente la legge. Ma non si confonda l'iniziativa che possiamo prendere noi come governo e come ministri e il dibattito parlamentare, perché adesso la legge sta lì e quindi bisogna aiutare le commissioni a fare un passo in avanti concreto nella loro discussione. Infine una domanda politica prima di salutarla. Oggi il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18, l'ordine del giorno è altro, ma potreste essere chiamati ad autorizzare la richiesta di fiducia per quanto riguarda la delega sul lavoro. In caso di fiducia, dice una parte della minoranza del Partito Democratico, dice Fassina, ci saranno conseguenze politiche. Non rischia di essere uno strappo troppo forte all'interno del vostro partito la richiesta di fiducia? Mi auguro che ci siano le condizioni per lavorare bene unitariamente, mi sono sforzato nel mio in tutti questi giorni di fare esattamente questo, per cui di chiarire bene gli obiettivi e condividere le finalità della delega. Considero la delega lavoro una grande opportunità per riformare il mercato del lavoro. Adesso avremo dei passaggi nelle prossime giornate che definiranno il quadro preciso delle cose, ma sono per lavorare in maniera unitaria e da questo punto di vista continuo a vedere le opportunità che ci sono in questo impegno, non i rischi. Però la fiducia potrebbe generare uno strappo. Ma mi auguro proprio di no. Si augura di no, però insomma da quel che leggiamo se vuole proprio farmi dire che non glielo voglio fare, se vuole glielo dico, ma no. Allora penso semplicemente che nel lavoro di queste giornate si possa trovare un punto di sintesi anche su questo. Grazie a Maurizio Martina, ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, per essere stato con noi. Il traffico e poi ci ritroviamo subito dopo come sempre con America 24. Ed è tutto, perfetto giorno, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, effetto giorno, @radio24.it se ci volete scrivere, una buona giornata da Simone Spezia, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.